vi presenta. Ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei a te. Tu hai curato becchino da parenzo, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. No time to waste. Baby, try to let go. Cruciani, volevo dire a te, ma tu sei Dio per giudicare. Ma tu che cosa comunichi con la tua trasmissione? Semplicemente grazie alla Zanzara e a Radio 24 che mi ha dato la possibilità di passarti questo messaggio. Non sei Dio e tante tante volte sei un po' un coglione. Ragazzi, viva l'Italia, eh! In Valle d'Aosta i consiglieri regionali sono stati assolti, tra virgolette, assolti dai magistrati, dai tribunali, perché non sapevano di commettere un reato. Cioè dire, spendevano a destra e a manca mazzancolle fresche, gioielli, biglietti aerei, anche un motorino, eccetera eccetera. Però secondo i magistrati, poi dice che l'Italia è pazza, no? In un posto si giudica in un modo, in un posto si giudica in un altro. Secondo i giudici non erano consapevoli di commettere un reato. Mi scrive una gentile signora su Facebook dopo aver ripetuto che io mangerò l'agnello a Pasqua, anzi forse ne mangerò più di uno, e che una volta, solo per una volta, ripeto, ho mangiato il cane, ho mangiato pezzi di cane in Corea del Sud. Mi scrive una gentile signora, oltre a insulti, minacce di morte, eccetera eccetera: caro Giuseppe, i vegetariani non sono tutti uguali e l'estremista in questo caso sei tu. Uno che dice di aver mangiato anche il cane perché voleva provare non avrebbe neanche il diritto di fare radio. Allora, sai cosa ti racconto, Parenzo? Ieri dopo la trasmissione, alla fine della trasmissione, mi ha chiamato una persona, non voglio fare il nome semplicemente perché magari me lo voleva raccontare in privato e non voglio... un famoso giornalista, no? Mi ha chiamato un collega che ha fatto tanti anni anche alla radio, è stato anche qui a Radio 24 tanti anni fa. Ma ho già capito chi è, ma non importa. No, non hai capito niente. Sì, ho capito. Allora, mi ha detto, guarda, ho ascoltato questa cosa sulla Corea, il fatto che tu hai mangiato un cane, sono dalla parte tua e ti racconto un episodio. Tanti anni fa andai in Corea per le Olimpiadi, stiamo parlando del 1988, e sono andato a fare io la stessa cosa, cioè a fare un servizio sulla carne di cane. Parlando con dei coreani mi hanno detto, ma io non capisco perché voi pensate che mangiare il cane sia una follia. Anzi, lo capisco, però per esempio noi pensiamo che mangiare il cavallo sia una schifezza, sia una cosa contro natura, eppure noi il cavallo qui lo mangiamo, ne mangiamo pure tanto. Ci sono anche, no, le macellerie solo di cavallo, dove io vado puntualmente. Il cavallo è pieno di ferro, per esempio. Io non vado perché. Ma tra l'altro, tu sei ebreo, c'è tutte le cose tue, tutte le tue fissazioni. No, ma anche però, mica solo per quello. Ma no, perché... ma io vado tutte le tue cose, fissazioni giuste, per carità, religiose. Io invece. No, ma non è solo religioso, è anche. Perché il cavallo che male fa? È ottimo il cavallo, stupendo, no, meraviglioso. Ma è anche una questione di discorso. Mi adoro i cavalli, adoro il palo. Ma che vuol dire adoro i cavalli? Anch'io adoro i cosi, adoro i polli. No, ma non vedo. Che differenza c'è tra un pollo e un cavallo? Non capisco. Ma non riuscirei mai a. Ma sono appunto. Vabbè, come ma dire, ho capito, tabù. Certo, no. Vabbè, ma sono tabù, sono. Tabù. Ma per carità, ma mica c'è l'obbligo io di mangiare la carne tabù, di cavallo. Ma beh, lo riconosco, io non mangio il cavallo. E mi ha detto che è una questione culturale. Cioè, mentre loro pensano che mangiare il cavallo sia una follia, se mangiano il cane. Ma qual è il problema? Non capisco qual è il problema. Comunque voglio rassicurare la cara signora che io continuerò a fare la radio nonostante il fatto che le dica che non ho diritto a farla perché ho mangiato una volta il cane, una. Vabbè, la politica cosa ci racconta? Queste cose sono molto più interessanti. Ah, a proposito, abbiamo parlato oggi con un signore che prossimamente verrà alla Zanzara, che fa crescere il pene di 4 centimetri. No, di 4, ah, insomma, di diversi centimetri. Ma tu l'hai chiamato per ragioni tue? Beh, di 300, no, io no. 300 interventi. No, perché è interessante. 300 interventi all'anno. 300 interventi chiama, all'anno. La falloplastica fa, la falloplastica. Ti prego. Bene, 800240024, la politica. Inizia benissimo il candidato del centrodestra in Liguria, Giovanni Toti. Adesso poi diranno che ce la prendiamo con Toti. Caro Toti, esatto, non ce la prendiamo con te. Non abbiamo nulla contro di te. Diciamo semplicemente, continua a dire che passare dal Parlamento europeo alla candidatura in Liguria, secondo me, non va bene. Questo è un mio parere. E poi diciamo che non è iniziato benissimo con questa cosa di Novi Ligure. Vabbè, ma quello è un lapsus, che c'entra? Quello è un errore. E vabbè, intanto c'è l'errore. Beh, un lapsus, è come dire, no. Sì, ma tu sai, Parenzo è passato a salvare chiunque. D'Alema va bene, Toti va bene. No, ma chiunque. Ma sono cosa, il primo che Pomicino, fa Pomicino va bene. Sono il primo che critica Toti, quando mi sembra giusto. Ma fino a qualche decina di minuti fa è stata collegata con noi anche per qualche decina di minuti la Repetti, che abita in Liguria insieme a Bondi. E lei ha detto: non abita è possibile noi, sì, essere trattati così da Toti. Allora, i militanti della Lega, ne voglio sentire tanti questa sera, chiamate, i militanti della Lega Nord, liguri, sono incazzati come bisce, diciamo la verità. Beh, quelli della Lega hanno poco da essere incazzati. Beh, sto radio trasmettendo da una città occupata, da Padova. Ma stai tranquillo, abbiamo modo di parlare, fammi no, fare una bella... ci sarà da dire qui su Padova. Vabbè, però, ma tu sei il nemico di Bitonci, invece sono no, a favore di Bitonci, amico mio, sono a favore di Bitonci, per cui non mi rompere le scatole. Ma non me ne frega niente a me, importante dopo 5 anni che amministri bene una città, e secondo me lo farà. Comunque, ha multato un pensionato. E ha multato un pensionato, e se lo sarà meritato, non lo so, oppure ha fatto ha una stronzata. Ma non lo so. Ha posto un cartello contro di lui. Vabbè, ma ha fatto una stronzata in questo caso. Quando uno fa una stronzata, uno deve dire che ha fatto una stronzata. Ha multato un pensionato. Vabbè, ma non sarà persone. Così, dai, su. Non sarà così. Poi parleremo anche di altre cose che ha fatto. Allora, vogliamo ricordare quello che diceva Salvini del candidato della Lega Rixi. Sentiamo, sì. Abbiamo la squadra, abbiamo l'uomo, non abbiamo l'arroganza di imporla a nessuno, se altri sceglieranno altri candidati, viva loro e auguri a loro. Noi oggi cominciamo e da domani lavoriamo. Noi abbiamo il candidato dal nostro punto di vista migliore, che il giorno dopo la vittoria comincia a lavorare perché conosce Genova, la Liguria, gli uffici e la regione palmo a palmo. Allora, questo Rixi è stato sacrificato, dopo essere stato portato in palmo di mano, dicendo addirittura che candidiamo Rixi per non portare la Liguria verso l'Africa, diceva Salvini. Sentiamo. Il nostro obiettivo è deburlandizzare la Liguria e riportare la Liguria in Europa e non verso il Nord Africa come la sinistra ha fatto. E quindi penso che la persona migliore per farlo ce l'abbiamo noi, si chiama Edoardo Rixi. L'uomo che doveva portare la Liguria lontano dall'Africa e verso l'Europa, in realtà gli è stato detto: senti amico mio, dobbiamo fare un accordo politico, adesso tu non sei più candidato, dopo essere stato in televisione giorni e giorni in tutte le trasmissioni come candidato della Lega in Liguria, adesso c'è Giovanni Toti, che ha iniziato, come abbiamo detto, cioè con una gaffa su Novi Ligure. Vabbè, ma è vero un che lapsus, è dai, vero un che è una cosa molto molto un lapsus, non è una sì gaffa, d'accordo, è una gaffa, dai, è un errore, però ci sta sì, un errore. Tra gaffe e lapsus, vabbè, è che uno sente, ma no, ma diciamo, poi lo criticheremo. No, ma la cosa più cose incredibile è che Salvini dice: Toti l'ho deciso io, il che è anche credibile, cioè per sacrificare Rixi, Berlusconi gli avrà detto: vabbè, scegli tu quello che ti sembra più opportuno di Forza Italia, io ti posso dare la Comi, perché è stata in corsa anche la Comi, ho saputo, la Comi, Toti, la Comi per la Liguria, sì, ma lo so, è stata in corsa per diventare, poi probabilmente ha detto di no, comunque ma ha fatto la Comi è simpatica, ma è ma anche Toti è uguale, perché Toti di dove è? Di Massa Carrara, no, è uguale, è di Massa Carrara, sì, e allora, mica Liguria, che ti fai, vuoi fare l'errore, no, pure tu, Massa Carrara in Toscana, no, però è più confinante. No, è toscano, è toscano, è toscano. Dai, vai. Sì, no, è vero. Salvini. Prima vinciamo le regionali, poi Berlusconi. No, ho deciso io. Mi prendo io l'onore e l'onere di qualunque scelta. Quindi Toti è anche il tuo candidato? Certo. L'ho deciso io. Beh, sarà contento Berlusconi, e anche Totti. L'ho deciso io. Ma secondo me è credibile, perché a un certo punto Berlusconi ha detto: senti, Rixi no, deve esserci un candidato di Forza Italia per varie cose di alchimie politiche, eccetera. Scegli questo, questo o quest'altro. Lui l'avrebbe detto: vabbè, a questo punto mi piglio Totti. Qualcosa si muove in Parlamento. Gli amici 5 Stelle questa volta ti staranno simpatici per quello che sentirai fra poco, vogliono la legalizzazione della marijuana. Non solo questo, ci sono 100 deputati, ma un tizio che si chiama Ciampolillo, signor Ciampolillo, vuole che ci sia il diritto di coltivare a casa propria la cannabis, le piante di cannabis. No, molto bene, quando fanno delle cose intelligenti. Oh, grandissimo questo Ciampolillo. Sentiamo che dice. Sfido a trovare anche un solo morto per cannabis. Sapevo di adesso è dato un po' avanti questo Ciampolillo, In Senato ho sfidato tutti i miei colleghi presenti delle altre forze politiche a portarmi un solo caso, ma ne basterebbe uno nel mondo, un malato, qualcuno, una persona che possiamo dichiarare che si sia ammalata di marijuana o che addirittura sia morta per l'utilizzo diretto di cannabis. Viva la cannabis coltivata a casa, cannabis libera. Io non ho manco fumato uno spirale in vita mia, mai, mai. Eppure dico cannabis libera e legalizzata. Posizione della Zanzara, non ci rompessero i coglioni su questo. Nessuno ci può rompere i coglioni. Ascoltatori della Lega, torniamo per un attimo alla politica, va. Ascoltatori della Lega incazzati come bisce Radio Padania per la candidatura di Totti e non del leghista in Liguria. Sono un po' deluso del fatto che andiamo in Liguria insieme a Berlusconi, perché penso che fosse, che quella lì poteva essere una regione che potevamo prendere da soli, e poi sinceramente Berlusconi ha un po' rotto le palle. Questi accordi qua, tanto il Veneto avremmo vinto lo stesso anche senza il suo appoggio, perché noi siamo forti, vero? Una cosa controtendenza, viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Allora, caro David, certo che la vita di Vittorio Sgarbi è incredibile, è fatta di follie, di processi, di storie pazzesche, tribunali, debiti, controdebiti, assunzioni, politica. Ieri ha detto che il padiglione Italia all'Expo andrebbe bombardato, e ha ragione lui, secondo me. Io bombarderei tutto quello che è stato fatto con l'Expo, tutto tabula rasa, e si ricomincia da capo, e disdire tutto, arrivi in Italia, tutto bombardato andrebbe, manca secondo me, un mese, tutto giù, tabula rasa, nella mia mente è così. Poi se devo pensare da persona, come dire, ragionevole, normale, dico vabbè, arriverà un po' di gente in Italia, forse qualcosa, ma è un evento straordinario, forse vedremo. Comunque bellissimo, ho trovato bellissimo questa cosa di Sgarbi. Padiglione Italia lo bombarderei. Ho scoperto anche che Sgarbi andrà in tribunale perché qualcuno gli ha chiesto 200.000 euro di danni. Ma lo sai perché? No. Lo sai perché? Perché ha definito durante un comizio un avvocato, che tra l'altro è il marito di un politico del nuovo centrodestra, che si chiama Simona Vicari. L'avvocato si chiama Massimo Punzi, lo ha definito pizzaiolo. Pizzaiolo! Adesso vediamo un po' se lo becchiamo sto Punzi, voglio fare spiegare. Un avvocato, Massimo Punzi. Pronto? Avvocato Punzi? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, come sta? Bene. La disturbo? No, mi dica. Senta, ho letto da qualche parte che lei ha chiesto 200.000 euro al grandissimo Vittorio Sgarbi per la questione del pizzaiolo. Ma com'è possibile questa storia? Il Vittorio Sgarbi ha fatto tutta una campagna elettorale, sì, a Cefalù, denigrandomi per in ogni comizio. Ma pizzaiolo non è? Solo perché io ero stato uno di coloro che avevano proposto la sua sindacatura, la sua candidatura a Salemi, a Cefalù. Nelle more che si presentassero, sì, queste candidature, il comune di Salemi è stato sciolto per mafia. Sì. A quel punto ho detto: non mi pare opportuno, sì, che un sindaco che esce fuori da un comune sciolto per mafia, si candida in un altro comune, vabbè, sempre siciliano, significa esporci alle critiche. Scusa, all'epoca lei parlava in qualità di cosa? Di avvocato. Di chi? Avvocato. Poi di è anche marito dell'attuale sottosegretario Vicari, no? Giusto? Sì, ma questa ha poca importanza. Però scusi, avvocato, lei conosce bene la giustizia. Adesso, ingolfare la giustizia italiana e i tribunali per chiedere 200... Ma io non ho ingolfato niente, guardi. Come? La giustizia italiana l'ha ingolfata lui. Perché? Perché è stato ritenuto poi incandidabile dal tribunale di Palermo. Sì. Lui ha fatto appello, è stato ritenuto incandidabile dalla Corte d'Appello di Palermo, si è candidato ugualmente e ha fatto pure ricorso in Cassazione. Cioè, per cui il casino con i tribunali. Non concludere nulla. Cioè, il casino nei tribunali l'ha fatto lui, lei dice. Da questo punto di vista. Poi mi piacerebbe sapere se lei venisse denigrato giornalmente nei comizi e preso per pizzaiolo. Scusi, pizzaiolo non è un male c'è a dare. Non è un'offesa pizzaiolo. Appunto. No. Ma se io le dico che lei fa il cameriere mentre invece fa il giornalista, lei si offende o non si offende? Ma dipende se uno dice cameriere nel ma senso di servo. Ma che c'è? Le offese non sono solo quelle di pizzaiolo. Le offese sono pure quelle, il pavido avvocato, l'inutile avvocato. Perché mi ero permesso di dire, guarda, che è meglio che non ti candidi, sì. No, che la legge prevede l'incandidabilità per gli amministratori. Ma questo chi l'ha detto? Quell'inutile avvocato, cretino, quell'avvocato, Salemi non andava sciolta, avvocato, cretino, pizzaiolo, Vittorio, pizzaiolo, pizzaiolo. Questo è Parenzo che sta facendo la parodia di Sgarbi, contro di lei. È un pizzaiolo, hanno distrutto Salemi. Però scusi avvocato, adesso 200.000 euro per aver ricevuto l'epiteto di pizzaiolo mi sembra troppo. O no? Vabbè, avrei dovuto chiedere 50.000 euro, 10.000 euro, 8.000 euro, poi sarà il giudice a stabilirlo. Vabbè, questo è chiaro. Non è che si ingolfa giustizia per il quantum della richiesta di risarcimento. No, però per il fatto stesso di portare uno in tribunale perché le dà il pizzaiolo. Ma mi hanno detto che la gente chiamava, lei si è sentito denigrato, anche perché la gente chiamava in studio, o sbaglio? Sì, chiamava in studio e ordinava la pizza. Ma lei l'ha mai fatta la pizza, ad esempio, a casa, magari con la moglie? Io sono bravissimo. Ah, vede. Sgarbi, come lo considera lei? Un ribaldo, che ne so, un pazzo, uno fuori di testa. Uno squilibrato, perché non ha capito che non c'era nulla contro di lui, se non un ragionamento assolutamente sereno e logico in quel caso. Peraltro, ripeto, io ero stato uno dei fautori della sua candidatura. Pizzaiolo allora, e Salemi, e Pasolini, pizzaiolo o avvocatucolo, pizzaiolo. Però, scusi un attimo, ma mi racconti come è Parenzo, sempre Parenzo. Mi racconti come la gente che chiama, cioè lei veramente pensa che la sua immagine sia stata denigrata? Guardi, non gli è scappato l'epiteto pizzaiolo in un caso. Sono stati tanti comizi. In ogni comizi sventolava, in un piccolo centro come c'è lui, hai capito? L'avvocato pizzaiolo, eccetera. La gente chiamava e poi? La gente poi si divertiva ovviamente su questo fronte. La gente ma quello poi non c'ha un euro, Sgarbi. Ma questo è un altro paio di maniche. Lo vedremo. Un euro non è questo, di cosa ci accontentiamo? Di 10.000, 20.000? Ma io, infatti, quello che mi daranno lo darò tutto ai pizzaioli. Ai pizzaioli, alla società pizzaioli italiana. Comunque, guardi che pizzaioli. Io pure di invitarla. Non è un'offesa, pizzaioli, avvocato. Ma certo che non è un'offesa. Lei ha detto se lei la chiamassero cameriere, che vuol dire? Diventa un'offesa nel momento in cui si vuole denigrare la professione del soggetto a cui è indirizzata. Quando lei vede Sgarbi in televisione arrabbiarsi, fare quelle scene là, che pensa? Penso quello che pensa pure lei. Cioè? Che parliamo di una persona sui generis. Può essere un esaltato, può essere un squilibrato, può essere una persona estroversa, però un conto è essere esaltato, un conto è trascendere poi nell'aggressione verbale, nella diffamazione. Si è sentito denigrato, vabbè, d'accordo. Va bene, pizzaiolo, arrivederci. Saluti. Signor pizzaiolo, arrivederci. Arrivederci, colleghi. C'è un tizio che si chiama Daniele Barbone su su Facebook, Twitter, non mi ricordo, anzi su Twitter, che dice: Giuseppe Cruciani sostiene che Expo 2015 varrà raso al suolo, ricordatemi chi è il suo editore, basta sciocchezze. No, ma scriva pure, signor Barbone, scriva Confindustria, Radio 24, Il Sole 24 Ore, cioè qual è il problema? Non ho capito, perché penso, perché mi fa schifo quello che è successo, mi fa schifo questo ritardo pazzesco che ancora ci sono i cantieri a un mese, mentre gli altri paesi a un mese dall'inizio dell'Expo è tutto a posto, ci sono cose scintillanti e da noi ancora ci sono i cantieri, perché mi fanno schifo le ruberie e le mazzette che ci sono state sopra, per questo mi vuole accusare? Poi è un modo di dire, vorrei bombardare tutto, no? Tutto quello che è successo in preparazione a questo Expo, magari sarà una cosa meravigliosa l'Expo, sicuro, tutto quello che è successo in preparazione mi fa orrore. Questo è vero. Lo posso dire che mi fa orrore o no? È vero, anche vero. La cosa più interessante di oggi, però, dal punto di vista politico, mi sembra la rissa tra il signor, credo si chiami Salvini. Ah, beh, stupendo. Salvini, Fedez e Jovanotti. Ne parliamo subito dopo il giornale radio. Salvini, Fedez e Jovanotti. E devo dire, urbi e torbi, caro Parenzo, che mi sembra che da questa disputa a tre, al di là delle cose che ha detto l'altra sera, non so, in televisione, che sono ogni tanto delle cose alla Jovanotti, insomma, un po' così. Diciamo, va, adesso non voglio usare parole dure, magari le userò dopo. Al di là di quello che lui pensa della politica, eccetera, eccetera, un po' fumoso, però lasciamo perdere. Mi sembra che da questa disputa tre quello che ne esce meglio è il signor Jovanotti, lo sai? Cioè, devo dire la verità. Il signor Fedez, il numero uno. No, vabbè, signor Fedez, no, vabbè, perché ha dato il razzista. A te ti basta che uno dà il razzista a Salvini per metterlo il su un piede. Il signor Fedez a gamba tesa, amico mio, a gamba tesa. Senza buonismi, senza Leopolde. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. C'è il rom che non ruba più. E allora guardati, sei tutta bagnata. Piove, senti come piove. Sei uno strumento nelle mani del demonio. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Praticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta La Zanzara. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai. Metto l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. La grande polemica del giorno, ragazzi, tenetevi forte. Jovanotti, Fedez, Salvini. Ruba, senti come ruba, Madonna come ruba, guarda come ruba, guarda come porta il portafoglio fino giù. Ruba, Madonna come ruba. Ma di chi stai parlando? Lo sto cantando la nuova versione di Piove di Jovanotti in versione Salvini. Ricapitoliamo. Jovanotti, che tu conosci peraltro molto bene. Non entriamo in queste cose. Non entrare in queste cose. Senti che cosa ha detto. Il mio orizzonte è la società multiculturale. Beh, questa ha ragione. Sì, sì, perché ognuno ha l'orizzonte che vuole. Ma il tuo qual è, scusa? Ma che ne so, qual è il mio orizzonte? Ma figurati che me ne frega a me di parlare di società multiculturale, società. Dai, su. Ma... Io non sono un sostenitore, non mi piace il suo orizzonte, no? Nel senso che il mio orizzonte e il suo orizzonte sono completamente diversi. A me piacciono le società multiculturali, per me l'orizzonte, il punto a cui tendere è proprio la società multiculturale. E poi parla di moneta unica mondiale. Beh, questo... Moneta unica mondiale, amici miei, moneta unica mondiale. Non dico niente, altrimenti qualcuno mi potrebbe accusare. Adesso spari contro Giovanni. Moneta unica mondiale. A me piace l'Europa. A me piace l'idea di una moneta unica. Vorrei una moneta unica non solo per l'Europa, ma per il mondo. Per il mondo, se fosse possibile. Mi sento europeo. Vabbè, queste sono le cose, le banalità di... Io non capisco perché... Ma perché se uno dice delle cose intelligenti e normali sono banali? No, ma moneta unica, la moneta unica mondiale, non lo so. Mondiale, no, io di questo parlavo, di questo parlavo. La moneta unica, no, la cosa che mi domando, perché... Non credo, però... No, perché ogni tanto, perché a un certo punto uno, gente come Fedez, gente come Jovanotti, dovrebbe fermarsi un attimo, no? E dire, ma io che cosa so fare di meglio nella vita? Nella mia vita sono bravissimo a cantare, a stare sul palco, ma sono cittadini, persone che stimano per carità, un pensiero. A un certo punto uno calma, devi stare buono, tranquillo, cioè non è che per forza bisogna parlare di moneta unica mondiale, ecco, è quello il punto. Se uno capisce, io sono bravo a fare una cosa, comunque vabbè, ne è nata una polemica, sì certo, ma non sono interessanti, non è interessante sapere della moneta unica mondiale di Jovanotti, cazzo, non è interessante. Perché no? Vabbè, ho capito. È interessante allora. Ma è interessante sapere che a te piace leccare i piedi. A qualcuno sì, a qualcuno no. Ma voglio dire, ma che c'entra? Adesso questo non c'entra nulla. Ma scusami, ti accusiamo. Comunque, Salvini, ci hai raccontato che ti piace leccare i piedi. Vabbè. E ti piace che le tue figlie. Ma io lo dico in una trasmissione radiofonica. Chi ma vuole sì, mi ascolta, chi vuole non mi ascolta. A te piace questo, che le tue fidanzate siano sormontate, condivise da altri. E beh, sì, abbastanza. Ma no, sì, abbastanza. Faccio per dire. Vabbè, comunque Jovanotti ha detto: è bello avere idee e orizzonti diversi. Ti rispetto, parlando con Salvini via Twitter, e ti trovo forte nell'esposizione delle tue. Che le idee danzino è bene. Che le idee danzino è bene. Ecco, no, va bene. È un punto un po' buonista che non mi piace. Allora, Fedez ha risposto: questo è il grande triangolo Salvini, Jovanotti, Fedez. Quando dici forte nell'esposizione, cosa intendi? Gli insulti razzisti e la xenofobia? Forti sono forti, eh? Danzarci anche no. Salvini. Musicalmente preferisco Jovanotti. Mio figlio è andato al concerto di Fedez, però purtroppo è un problema che ho in famiglia. E come apertura mentale mi confronto volentieri con Jovanotti, che la pensa diversamente da me. Fedez mi sembra un talebano. Mi ha fatti litigare. Non so, se si metteranno d'accordo, facciano un canta che ti passa, non so, un problema loro. Airola, beh, 5 stelle ragazzi, in questo caso fanno benissimo, avanti tutta, diritto a fumarsi uno spinello, c'è il diritto, io non ho mai fumato in vita mia e non sopporto nemmeno le serate a base di canne, è una cosa che trovo insopportabile, quelle cose che fai tu, Parenzo, con i tuoi amici snob di sinistra, facciamoci una canetta al centro di Roma in casa da 300 metri quadri, facciamoci una cannettina la sera, no? Così a sfumacchiare, e se io le serate a base di canne non le faccio, non mi interessa, mi fanno anche un po' schifo dal punto di vista proprio epidermico, però viva Airola! Non stiamo parlando di una persona che si fa uno spinello e si rilassa, stiamo parlando di ben altra portata, ben altro argomento, fatto salvo che anche quella persona ha diritto, a mio avviso, di usarla come meglio crede. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Kenya, un comando jihadista somalo assalta un college universitario, 70 morti, alcuni decapitati, cristiani in ostaggio, in corso blitz della polizia. Graziano Del Rio, nuovo ministro delle infrastrutture, tra poco giuramento al Quirinale, alleanze nel centrodestra, accordo Forza Italia Lega, Toti corre in Liguria. Si allarga l'inchiesta sulle grandi opere, in carcere due imprenditori per le tangenti per il gas a Ischia, ha interrogato il sindaco, nessun favore alla COP Concordia. L'Istat nel 2014 non scende la pressione fiscale, potere d'acquisto quasi fermo, ma la spesa delle famiglie torna ad aumentare. Il disastro dell'Airbus è trovata la seconda scatola nera a Lubitz, pochi giorni prima cercò sul web metodi sul suicidio e notizie sulle porte di cabina degli aerei. Il Papa nel carcere di Rebibbia per i riti del Giovedì Santo, la lavanda dei piedi a 12 detenuti, in mattinata un gruppo di preti, a volte anch'io sono stanco. Glauco da Milano, vai Glauco. Ciao, buonasera, nell'attesa mi sono spento, cercherò di essere vivace ugualmente. Ho telefonato per una stronzata che è stata detta ieri sera. A proposito di stronzate, sì. Toti non è di Massa Carrara, ma è di Viareggio in provincia di Lucca. Sì, no, però... È di Massa, La città di Massa Carrara non esiste. Sì, ma lo so benissimo che è la provincia. Sì, ma stai tranquillo, devi stare Glauco, devi stare molto tranquillo. Calmo, calmo, tranquillo. Lo so benissimo che Glauco, devi stare 20 km di distanza, Massa Carrara, Pesaro. Esiste una provincia, Massa Carrara, quello mi riferivo, chiaro? Nato a Massa, è come se io fossi nato a Senti. Milano Monza. Io sono nato a Milano. Senti, Glauco, Monza, Glauco, non venire a rubare a casa dei ladri, innanzitutto, primo. No, beh, io sono allora, venuto a rubare a casa. Ma non viene, non viene a rubare a casa di nessuno, a causa di nessuno. Io ho detto è della zona di Massa Carrara, intendevo la provincia. Di Massa Carrara, sì. Viareggio, provincia. Va bene, ho detto hai ragione tu, ti lascio parlare, hai ragione tu, bravo. Complimenti. Vai, bravo. Grazie. Partiamo con la stronzata di ieri sera. Sono un fondatore di una di quelle associazioni che spesso sono chiamate con tono dispogiativo animaliste, perché si preoccupano del benessere degli animali. Nello specifico la mia associazione si chiama Un Cavallo in Famiglia. Un cavallo in famiglia, bene. Dei cavalli, certo, bene, ottimo, ancora. Bravissimo. Così anche come cani, gatti, tartarughe. Bene, e che vuoi da me? Ieri un signore, un gergo eufemistico, ha dichiarato col suo solito tono saccente che tra gli animali solo i cani si differenziano perché possiedono sentimenti. Inviterei il signor Parenzo a documentarsi meglio prima di darsi ad onanismi mentali che sono all'altezza della sua altezza fisica. Adesso non so citare documentazione scientifica o meno a riguardo, perché potremmo stare minuti al telefono. Lo invito solo a riflettere, signor Parenzo, se ci riesce, prima di parlare e offendere animali che al suo cospetto sono più degni degli esseri umani che hanno perdito indegnamente, e di farli uscire dai macelli e di guardare negli occhi un cavallo, una mucca, un coniglio, anche una gallina, se siano o meno quei sentimenti che lui disconosce. Quando ha tempo poi si lega qualcosa sulla terapy, non sto traducendo perché il signor ha finito hai finito il comizio? Hai finito il comizio? È una stronzata. Allora, Glauco, la questione è questa. Io non ammazzo i cavalli, non guardo ammazzare i cavalli. Se guardo i cavalli ammazzati, io lo farei semplicemente per curiosità, ma non, sicuramente non mi piacerebbe. Dopodiché me magno la carne di cavallo perché mi piace, chiaro? Chiaro? A vedere un macello, forse non mangerebbe più carne. E io invece la mangio, cosa vuoi? E allora? Ma adesso non spostiamo l'argomento sul signor Cruciani, che la stronzata l'ha detta oggi. Ma qual è la stronzata? Ma di che parli? Ti sei fatto due o tre cannette stasera. I cani possiedono sentimenti, è una stronzata. Va bene, è una stronzata, bravo. Si deve vergognare, è una emerita stronzata. Vi saluto, buonasera. Bravo Glauco comiziante, Luca da Milano ha fatto il suo comizio, bravissimo Glauco. Bravissimo. No, ma va bene. L'associazione Pro Cavalli, già uno che si iscrive all'associazione dei cavalli in fondo. No, ma io i cavalli li amo. Ma io pure amo i cavalli, però mi mangio pure la carne di cavallo. Allora, io ho detto che non mangio cavallo, quindi. Luca, Milano. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei spezzare una lancia a favore di Cruciani. Su che? Sul discorso della carne di cane, perché tutti quei perbenisti del cazzo, compreso quello di prima, dovrebbero andare su internet a guardare quali sono gli animali più intelligenti. Al secondo posto, sapete cosa c'è? Chi il c'è? Maiale. Sì, certo. Il cane al sesto posto, il cane. Sì. Il gatto al decimo, il cavallo non c'è neanche. Sì, probabilmente è così, adesso non lo so, non ho fatto questa classifica, se questa classifica esiste, certo, ma cani più intelligenti, nessuno però si occupa dei maiali, a parte gli animalisti estremisti, diciamo, nessuno si occupa di proteggere i maiali. Però pensano al cane, però in realtà capisce di più che è in fin di vita il maiale quando è in viaggio verso la morte. Ma un bello agnello arrosto, cosa te lo fai, Parenzo? No, l'agnello arrosto a Pasqua, no? Vabbè, che tu l'agnello si può, come no? Certo. L'agnello arrosto a Pasqua, meraviglioso! L'agnello arrosto può, con le patate, no, con patate, con patate. Deve essere semplicemente macellato alla maniera ebraica, ma si può mangiarlo ovviamente. Con patate, ovviamente, no? Con patate arrosto, puoi mangiarlo con le patatine al forno, bello, anche l'agnello sfumante. Non capisco perché gli ebrei non possono mangiare l'agnello. Ma che ne so io? Siete proprio delle bestie. Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Luciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. Oh, a proposito di Vissani, a proposito di Vissanone. Ho sentito, anche oggi Vissanone. Allora, Gianfranco Vissani, grande chef, ma anche grande amico di D'Alema, ieri sera alla Zanzara ha detto che i vini di D'Alema, sono buonissimi, sono ottimi a livello dei Bordeaux, Io penso che Massimo D'Alema sappia quello che dice, però i vini sono molto buoni, i suoi, da Sfide a Nannò oppure magari alle Maddalene, sono dei grandi pezzi. Ricordati che Nannò ha quel deposito che solamente i grandi Bordeaux lasciano, quel vino. Vabbè, d'altra parte è inevitabile, ma la cosa più bella di Vissani di ieri sera, al di là della sua difesa di D'Alema, i vini sono ottimi, lui è arrogante perché è un numero uno, ma in realtà poi è un buono nel privato, è uno che non è così come sembra nel privato, all'esterno sembra antipatico perché ha questo modo burbero che hanno tutti quelli che sono arrivati nella vita, e addirittura fa l'esempio suo, di Vissani, ma anche di Rivera, di Gianni Rivera. Però la cosa più interessante era la barzelletta sui rom, io l'ho trovata fantastica perché, devo dire la verità, Vissani mi ha un po' deluso, perché uno deve avere il coraggio, perché non si possono fare barzellette sui rom? Non capisco, si fanno barzellette sui rom. Ma era stupenda. Uno magari ha raccontato così tra amici. Come sei diventato? Sei diventato una cosa incredibile. No, ma io sono diventato. Io credo questo. Ad esempio, io racconto delle barzellette veramente sporche. Ma si può, ho capito, ma questa ma qua. Ma non mi sognerei mai di raccontarla alla radio. Sì, ma perché? Amico mio, ma perché no? Ma la vita è la vita, perché? è la vita. Perché ritengo che se sono a cena con delle persone e mi diverto, mi conosco, non le racconto volentieri le barzellette, ma non capisco che le racconta la radio facendo magari del cattivo gusto per altri. Del cattivo gusto per altri, oddio mio, oddio mio, ma che non toccare il telefono che si sentono i tasti, Vissani, e la barzelletta sui rom, dai, sentiamo. Le puoi raccontare tu, però, sentiamo, dai, sentiamo, sì. Tu le racconti. A Santa Maria Novella c'è un ragazzo che ha 3 figli, questa rom c'aveva un figlio di 20 anni, un figlio di 15 e un figlio di 7. Dice, questo è 20 anni, tutti gli atti ci sono i suoi, tutte le cassaforte le fa fuori tutte, le apre tutte. E questo di 15 anni, terzo e quarto piano, cassettoni, letti, tutto. E questo da 7, dice, sugli autobus, borsette, portafogli, dice, è proprio veramente un treno. Poi basta, te posso dire. Allora, ripeto il finale, e quello che c'ha in pancia, questo sa già tutto come fare. L'altro giorno mi toccavo dentro, ho messo dentro un dito, ma ha fregato l'anello. Allora, andiamo a Milano, Daniele. Intanto c'è un candidato del Movimento 5 Stelle a Giugliano, giù in Campania, che su Facebook ha scritto, poi se n'è pentito come sempre succede, peccato che sull'aereo della Germanwings non ci fossero gli elettori del Partito Democratico. Idioti di merda, peccato che su quell'aereo non ci fossero i fottuti elettori del PD. Ora dico, questo tizio si chiama Ruocco, ma cosa ti penti a fare dopo se hai scritto una cosa del genere? Se hai scritto una cosa del genere, hai scritto una enorme stronzata e dopo è inutile che dici, no, però qui volevo un momento, non c'è niente da dire, una cosa del genere. È 5 Stelle, dai. Ma che c'entra 5 Stelle, dai, su. È nello stile dei 5 Stelle. Daniele, vai. Sono così loro. Daniele, eccoci qua. Dimmi. L'avevo twittata sulla battuta di Expo. Sì, ciao, dimmi. Ciao. La battuta di Expo che ho ripreso testuale, che ha fatto poc'anzi, diceva che Expo va raso al suolo completamente. Questa era la battuta. Ma non era una battuta, è quello che penso irrazionalmente di Expo per tutto lo schifo che ho visto fino adesso, nella preparazione, nei ritardi, in tutto quello che volete. È una cosa diversa dire che ci sono stati ritardi da dire che Expo va raso al suolo completamente. Anche Sgarbi, quando dice che il padiglione Italia di Expo va bombardato non intende bombardarlo con i caccia, no? È evidente, è una provocazione, è un moto dello spirito che viene su quando vedi quegli orrori. Ma tu lo sai perfettamente che 6 cantieri su 7 sono in ritardo, lo sai perfettamente che bisognava completare anche per esempio i cantieri saranno anche in ritardo, ma l'Expo ma è un evento universale, ma io non lo so perché poi che non va preso per essere bombardato dal punto di vista Daniele ideale. Io non lo so come andrà a finire, perché poi i bilanci delle cose si fanno molto tempo dopo, no? Le opere completate, quello che rimane, quello che non rimane, attivo, passivo, non è possibile fare un bilancio in corso d'opera. Vedremo tra qualche anno se questa cosa qui. Ma l'auspicio deve essere sia un evento universale, caro, che riesca molto bene come è riuscito quello di Shanghai. Ma è d'accordo, ma siamo tutti d'accordo su quello. Chi non è chi? Allora. Perché bisogna essere pessimisti a ogni costo? Io ho detto quella frase lì molto pesante, perché effettivamente io vorrei cancellare tutto per quello che è successo fino adesso. Quindi anche Luciani pensa che l'Expo dovrà riuscire bene, che sarà un grande evento. Ma io spero che riesca bene, ma è normale che spero che riesca bene. Io non lo so, però non si potrà dire né adesso, né a giugno, né a luglio, né a agosto, né alla fine, né a ottobre, perché i conti si faranno dopo. Soldi spesi, ritardi, attivo, passivo, cosa rimane a Milano, cosa rimane all'Italia. Non è che si può decidere adesso. Fino adesso quello che vedo io sono dei grandissimi ritardi e delle grandissime figure di merda. Questo dico io, questo non si può negare, o sbaglio? Ci sono anche i ritardi, ma no, anche soprattutto fino adesso, soprattutto per adesso intanto, soprattutto poi vedremo, poi sono ritardi anche perché hanno dovuto allora tifiamo chiamare. Contro facciamo come ma quelli non è della tifare io non tifo come quelli che quando vedono la nazionale prima che scende in campo tifano contro. Daniele, no, scusa, ma cosa se va bene allora a quel punto tutti quanti a dire no, ma io sono Daniele io sono, voglio dire, non sono qui a fare né professione di ottimismo né di pessimismo. Io vedo quello che accade mi sembra un profondo ritardo. Ma vi sembra normale che all'1 maggio deve esserci l'inaugurazione, lo si sapeva da anni, a Dubai già stanno facendo le cose per quando ci sarà, e devono chiamare degli scenografi per incartare le opere incompiute? Cioè, ma sarà mica una roba normale questa? Poi io stifo Expo perché andrò, mi diverte, sarà una cosa straordinaria, se magna, se beve. Vabbè, che c'entra quello? È meraviglioso, si possono vedere i padiglioni di tutto il mondo, il cibo di tutto il mondo si può degustare, quindi sarà una cosa straordinaria dal punto di vista architettonico, dei profumi. Però fino adesso si vedono solamente le torri, i cantieri, la fretta, la solita cosa italiana, questo si vede, punto. Cioè, ma basta, punto. È vero. Daniele, grazie. Paolo Ravenna, vai. Grazie. Paolo, vai. Paolo. Domenico Milano, vai. Domenico. Ciao. Dimmi. Oggi ascoltando il Merolone sui discorsi degli animalisti. Sì, ma parla più forte, amico mio, parla più forte, avvicina il microfono, il telefono, fai quello che devi fare, ti prego, dai. Ascoltando il Merolone mi è venuta voglia di segnalarvi l'esistenza dei Risto Bordelli a chilometri zero in Senegal. I Risto Bordelli a chilometri zero, che vuol dire? In pratica sono entrati in questo ristorante e tu entri e c'è un pollaio. Sì. Dopo il pollaio entri dove si mangia. Sì. E ti danno da mangiare il pollo con le patate. Sì. Gli avanzi vengono buttati nel pollaio. Sì. Quindi le galline mangiano il pollo. Sì. E mangiano te. Sì. E mentre mangi la cuoca tenta di prostituirsi. Beh, tu dici un ciclo tutto rinchiuso in pochi metri quadrati. C'è tutto il pollo, la polleria e la prostituzione dopo. Esatto. Niente, perché ci fai questa considerazione sul Senegal, sui porno, com'è che l'hai chiamati? Risto Bordelli a chilometri zero. Il Risto Bordelli a chilometri zero al 19:44. Scusa, perché ci fai questa considerazione? Non lo so, perché sono stato tutto il giorno in ufficio, ho ascoltato le ultime 3 puntate della Zanzara, ho sentito solo animalisti rompicoglioni e mi è venuta in mente questa cosa, non lo so. E vabbè, ho capito, che legame c'è tra i polli che vengono coltivati e le cuoche che si prostituiscono, le cameriere senegalesi che si prostituiscono, scusa? Tra le cuoche che si prostituiscono niente, no, mi è venuto in mente perché il Merolone parlava dei polli che dovrebbero vivere lo stato brado e... Ah, e allora ti sei ricordato di quando sei andata prostituta in Senegal? Sono consapevole che non c'entra un cazzo questa cosa. Volevo solo, non so perché. Però io dopo ti abbraccio. No, ma ti abbraccio fortissimo. Renato dalla provincia di Brescia, vai. Renato, buonasera. Dimmi. Io dovevo parlare con lei di vegetariani, mi ha un po' bruciato quel signore. Vai tranquillo, prima. Vai dritto. Volevo vai. Soltanto dirle, ecco, che in tutto il mondo non può essere vegetariano, ovviamente, però si ricordi soltanto quando lei parla di con piacere il fatto che mangia carne, che dietro comunque c'è la sofferenza di essere viventi. Solo questo volevo dire. Ma perché no? Lei mi consente. Ma sì, ma fate quello che volete. Pensate alla sofferenza. Soltanto, quando soltanto uno mangia qualcosa che viene da un animale, ogni animale soffre. Qualsiasi certo. animale soffre quando certo. uno lo uccide, è evidente, lo so ecco, benissimo. Ma purtroppo nella vita dell'umanità c'è stata una lunga guerra tra l'uomo e l'animale, e alla fine l'animale è quello che ci serve per campare. E poi se uno pensa che il mondo possa essere vegetariano, bene, ma uno non può imporre. Non si può imporre agli altri. Posso dire una cosa a Parenzo? Sì. Ecco, volevo dire a Parenzo che questa realtà la dico a tutte e due, la dico dopo. Volevo sì. dire che se vi interessa l'argomento giustizia, potreste leggere, se non l'avete già fatto, l'intervista che ha rilasciato Giuseppe Orsieri al giornale. Sul fatto che è stato in galera, ecco. Ingiustamente, è stato assolto e hanno distrutto l'impresa ecco. italiana. Poi ho letto benissimo. Dire, va bene, grazie. No, non abbiamo tempo. Ciao, okay, ciao, ciao. Sera, ciao. Ciao, ciao. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Abbiamo con noi Maurizio Bianconi, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Dove si trova Bianconi? Sono in casa mia. Posso dire ancora Forza Italia oppure no? Lei dica quel che vuole. Eh beh, no, io dico quello che vuole, d'accordo, però non vorrei sbagliarmi, non vorrei utilizzare cose, dire cose inesatte, per carità. Non avendo cariche particolari ancora non mi hanno buttato fuori. Beh, lei non se ne va comunque. Io tendenzialmente non me ne andrei, ho già detto che mi pare che chi rappresenta quelli che vogliono fare opposizione al governo del segretario del PD possono stare in Forza Italia, chi invece ci faceva i patti è bene che se ne vada. Però ormai quindi, Berlusconi che fa? Non si capisce anche là. Dovrebbe andare via lui da Forza Italia. Dovrebbe andare via lui. Ma adesso si è messo all'opposizione, scusi Berlusconi, a parole. Due minuti soltanto. Lei se è all'opposizione Berlusconi deve contare cosa fa contro chi gli si ribella. Affitto gli ha commissariato anche i cessi pubblici della stazione di Bari, mentre a Verdini che gli ha fatto fare la lettera contro firmata anche dal coordinatore regionale Parisi non ha fatto un baffo, anzi ci riparla. Il coordinatore regionale Parisi e la Toscana è sempre al suo posto, che vuol dire che sempre toscanamente fanno come i ladri di Pisa, cioè fanno finta di litigare il giorno e la notte vanno a rubare insieme. Quindi lui è ancora dentro il Nazareno proprio con tutte le scarpe, ha fatto soltanto a Muina perché doveva prendere Salvini e fare la sua alleanzina in Veneto e in Liguria. Ma a proposito della Liguria, il signor Toti con i leghisti della base incazzatissimi è stato candidato. Beh, un'ottima scelta, mi pare. Che scelta è questa qua di Toti per la Liguria, per la regione Liguria? Per l'Italia e per la stampa forse è una buona scelta quando c'era. Per la politica ce ne sono molti peggio, ma ce ne sono tantissimi meglio. Tantissimi meglio, addirittura. Tantissimi meglio. Per Forza Italia è l'uomo fotografia perfetto di Berlusconi di questo momento. Perché è perfetto? Perché dalle coglionerie che dice vaglia, capito? Cioè, quando apre bocca dice sempre delle sciocchezze, ma cubitali. Insomma. Cubitali addirittura. Mi sembra, l'ho già detto io, è un po' il sergente Garzia che fa delle pessime figure. O anche quel generale. Lei che non è giovanissimo, Crociani, forse se lo ricorda. Chi? Se lo ricorda quando il primo Bush entrò con i carri armati in Baghdad nel 92, sì, forse 93, no, certo. E c'era un generale iracheno che dalla terrazza di una piazza diceva al mondo che gli americani erano sconfitti, e mentre lo diceva gli passava il carro armato sotto col cannone che gli... E così lui dice: Forza Italia Unita, siamo fortissimi, siamo centrali. È un po' come quel generale lì. Addirittura Forza Italia è messa così male che sta proprio come, no, come l'Iraq. Toti è messo male, no? Anche forse Toti è messo peggio. Ma Toti, scusi, pensa che Novi Ligure sia in Liguria e vabbè, ma è un lapsus quello, è un lapsus linguale, diceva il mio compagno di banca. Sì, no, è una cagata, cioè è uno che sente Liguria e dice Liguria. Ma è un lapsus. Ma per la Liguria che cos'è? Che cosa rappresenta Toti? Può fare qualcosa per la Liguria o no? Non lo so cosa può fare per la Liguria, ma fa tanto del male a Forza Italia che un pochino di male lo può fare anche alla Liguria. Ho già detto in un comunicato ieri che francamente la Liguria aveva avuto alluvioni e tragedie varie, non si meritava anche Toti. Ma no, adesso alluvioni, no, tragedie, alluvioni, tragedie pure Toti. Vabbè, ma tanto, vuol dire, lì le speranze sono quasi zero, sbaglio? No, è la figura che si fa a presentare uno così. Ma perché ha tolto dalle scatole uno che sapeva quello che faceva, capito? Perché questo Rixi era uno di territorio. Sì, è vero, questo è vero, Rixi era uno di territorio, non c'è dubbio. È sempre il malvezzo della politica di fare accordi sopra la testa della gente e pretendere che poi la gente li voti. Questo però devo dire la verità, in questo la figura di merda l'ha fatta più Salvini che Toti. Salvini che tenta di fare la sua corsa è rimasto terrorizzato dalla questione Tosi. Sì, è vero. Ha fatto la faccia feroce e ora si è un po' impaurito. Allora è vero, la paura di perdere il Veneto, e quindi sta a fare qualche cattiva figura. Io penso che in Veneto Forza Italia non sia grande cosa, perché Forza Italia in Veneto c'ha Galan, che è ladro confesso. È ancora deputato ed è presidente della Commissione Cultura ed è ancora dentro il partito, perché nessuno l'ha cacciato. Incredibile, dà il segno del tutto. Incredibile questa cosa qua, che Galan, che è reo confesso perché ha patteggiato, è ancora formalmente deputato, presidente. È deputato, è in Forza Italia ed è presidente della Commissione Cultura e ancora nessuno l'ha tolto dall'ufficio di presidenza. Ma gli andrebbe tolto lo stipendio, secondo Bianconi? Lo stipendio dovrebbe essere decaduto dalla carica, e penso, e poi lo stipendio. Vabbè, sì, se decade dalla carica, certo, non c'è dubbio. Direi di sì. Ma Forza Italia, Parenzo, pensa, prima mi diceva una cosa, che gli sembra come gli ultimi giorni di Pompei, o no? Cioè, come... Io ho detto gli ultimi giorni di Forza Italia, l'ho intitolata. In che senso? Perché proprio c'è... Poi le leggete i miei comunicati facciamo finta di... Dice Parenzo le cose, esatto. Mi dice quel che dite, bravo. No, lui dice Pompei. È una tecnica. Esatto. No, io ho scritto gli ultimi giorni, siamo agli ultimi giorni di Forza Italia o alla ridotta in Valtellina, scegliete. Secondo lei poi ci sarà lo scioglimento? Fra qualche giorno si scioglie tutto? Secondo me Forza Italia è finita come esperienza politica, è una, come posso dire, è un modo di essere pigoni di se stessi. Ma chi l'ha distrutta? Chi l'ha distrutta Forza Italia? Gli errori cubitali di Berlusconi, questo è stato il vero dramma. L'ha riconosciuto anche Romani, guardi, al di là degli scherzi. Romani ha detto che l'errore più grande che ha fatto Forza Italia da lì incominciata la rovina è stato il fatto di avere votato il governo Monti. Lei si ricorderà che io sono stato l'unico a votare contro il governo. Ma anche la figa l'ha distrutta. Guardi, quello è un accessorio, perché quando funziona la politica la figa è secondaria. La figa è secondaria. Se la gente è contenta, dopo la figa è secondaria. Se la gente è scontenta, torna la figa. È come se Maradona, finché fa il gol, nessuno gli rompe i coglioni. Quando poi ha smesso di fare gol, hanno cominciato a dire che andava con quella, con quell'altra. La cocaina, eccetera, eccetera. Cioè, quando i Superman fanno il loro dovere, gli viene scusato tutto. E quando non fanno più il loro dovere, non gli viene più scusato niente. È vero, quando comincia il declino, quando non sei più capace, ti rimproverano di andare a mignotte, eccetera, eccetera. Tutto. Un po' la figa l'ha rovinata Forza Italia, dai, diciamo la verità. Sul piano delle immagini sicuramente sì. Cioè, un po' di pelo di figa è stata la causa del disegno. Questo e gli ha detto Parenzo, anche questo, perché mi ha visto ieri alla camera e gli ho fatto un'osservazione in quel senso. E che osservazione era? Che osservazione? Sul piano, no, la posso fare alla radio. Sul piano dell'immagine l'ha sicuramente rovinata, perché la vera botta, il consenso personale di Berlusconi l'ha data, è stata la questione delle scene eleganti. Allora, c'è Daniela Martani, che è un hostess, che mi dice: spero che ti caccino a calci per le tue esternazioni becere sull'assassino degli agnelli, sei una brutta persona. Io mi mangio l'agnello a Pasqua, ciao. Brucida. La Zanzara. Ragazzi, stavo leggendo questa intervista al medico esperto in allungamento del pene, caro Parenzo. È davvero impressionante, spero davvero di... Ma io non so se questo argomento interessa il nostro amico deputato. Ma non lo so, adesso lo sto dicendo al grande pubblico. Lì c'è, no? Da allungare Forza Italia, c'è da allungare. Sì, ci sarebbe da allungare Forza Italia, che si è ristretta, notevolmente. Però per fortuna il pene non si restringe. Scusi, posso ordinare del sushi per le 9? A nome Parenzo. Ah, questo ordina pure il sushi in diretta, pazzesco. Me lo può portare a casa? Beh, ovvio, a casa, certo. Siamo in 5. Cioè, sushi per 5 siamo sui 100 euro, in tutto, 100-150 euro. Non lo vuoi, papà? Ah, ok, allora 4. Allora, la cosa incredibile è l'intervento più richiesto, dice questo medico, è l'ingrossamento. Si prende il grasso corporeo, spesso dalla pancia, e si inietta nel pene. Si arriva anche al 30% in più. Mamma mia, oh. Comunque con 5-8 mila euro di media te la puoi cavare, 5-8 mila euro. Cosa da fare? No, ma è interessante questa cosa qua, è molto interessante, perché sì, io non farei mai un intervento di questo tipo. Invece no, ci sono cose che io sottolineo, sono le ore 20, domani è vacanza, è Pasqua. Ma domani non è Pasqua, è venerdì, ma di che stai parlando? L'inizio del ponte. Ma è venerdì, ma tu non dovresti essere interessato, è la Pasqua che non ti riguarda, sei ebreo. No, non ti... è la Pasqua ebraica invece. Ma non lo so, non mi interessa a me, domani è un giorno lavorativo come un altro, non mi interessa. Sì, ma la gente comincia a... Ma non me ne frega niente a me, allora, della gente. La cosa da capire è questa: se uno alle 20:01, primo, dalla radio della Confindustria, per me non è un aggravante, figuriamoci, ma dalla radio della Confindustria, sì, alle 20:01, in una giornata in cui nel mondo è accaduto di tutto, nuovi attentati, sì, Califfi, poi ci sono Salvini che litiga con... Cioè, accade, ma scusa, di ma... tutto. Allora, alle 20:01. No, allora parlo... Un signore di nome Cruciani. Sì. Ci spiega con il signor Squinzi, mi sembra confidusa, che sta tornando a casa in macchina e dice: oh, vediamo un po' la mia radio, tutto fiero, sì, e orgoglioso, sì, accende, no? E sì, dice: oh, vediamo un po' la mia radio, sì, di che cosa tratta oggi. Donc, gira, accende, sì, e sente Cruciani che parla di allungamento. Dice: oh, beh, finalmente sì, allungamento, probabilmente si parla dei termini dei contratti, dirà lui, no? Squinzi, allungamento dei contratti. No, invece, è l'allungamento del pene di cui tu ti occupi. Allora, capisci che c'è qualcosa di storto, no? Allora, ripeto, Daniela Martani, che è un ex hostess, ti ricordi, che fece casino all'epoca della Litalia, scrive: come mai non cacciano a calci nel culo dalla Zanzara un violento come Giuseppe Cruciani, che sostiene quanto sia bello uccidere un agnello? Io non ho detto che è bello uccidere un agnello, anzi, se vedessi uccidere un agnello probabilmente mi sentirei male, però mi mangio l'agnello a Pasqua, ma qual è il problema? Adesso vogliamo pure abolire l'agnello a Pasqua? C'è la signora Brambilla Bianconi, è una che appartiene a Forza Italia fino a prova contraria, la signora Brambilla, se la ricorda lei? Però sì. Se la ricorda la signora Brambilla? La signora Brambilla vuole fa questa campagna per stop all'uccisione dell'agnello a Pasqua. Ora dica, signora Brambilla, no, non è né la prima né l'ultima, e ogni tanto viene fuori sta roba. Come quelli che non vogliono l'albero di Natale perché non sapriscono che ci sono gli annevamelli di addosso. Ma sì, ma lei lo sono mangiato. È come le campagne vegane. Quando uno dice: io non mangio i prodotti degli animali, bene, se non mangi le uova, oltre a non mangiare la carne di pollo, che questo può essere libero, fra un pochino di galline non ce ne sarà più neanche una, perché non servono a nulla. Che si fa? La gallina, come dice Cocchi Renato, non è neanche un animale intelligente, quindi si estingue perché non ci se ne fa un cazzo della gallina, e quindi via. Le mucche, allora le mucche non si può né prendere il latte, né prendere il formaggio, né niente, non servono a un cazzo, e la gente smette di avere le mucche. Quindi il sistema per estinguere le razze e animali, i vegani l'hanno trovata alla perfezione, cioè un rapporto completamente inutile. Non sono animali di compagnia, perché le vacche non è che le puoi mettere in poltrona, cacano da certo, tutte le certo. I vegani, signori vegani, i vegetariani li posso capire, perché è una cultura, sì. Ma i vegani sono proprio dei coglionazzi. Ma in che senso? In che senso dei coglionazzi? Perché ammazzano gli animali, perché fanno estinguere le razze, perché se un animale non serve a niente, la gente non lo alleva, un animale, le oche, le galline, sì. Le mucche, sì. I maiali, e tutte sono animali che sparirebbero dal mondo. Se uno ci pensa, perché non servono a niente. Se un mangi le ova, un mangi la carne la ciofana, ma se mangi neanche le ova, che cazzo te lo tieni a fare un polvere, coglioni? Per non parlare anche dei pesci, insomma, non parlare dei pesci, no, lasciamo fare i pesci, ma pesci fanno da sé, sono nel mare, si auto, ma tutta questa serie di animali domestici che sono utili all'uomo, eccetera, eccetera, finirebbero tutti. Ma lei lo sa che esistono anche dei ristoranti vegani? Ma come no, che lo so, ma i coglioni non c'è mica mai fine, cioè voglio dire, lei pensa che quando vengono fuori le mode c'è una filata di coglioni nel mondo che fa paura, non è che... Guardi, è una cosa che non si può immaginare, il veganesimo, c'è gente che è appassionata alla filosofia, poi non so neanche se fa bene, capito? Sì. Però sono cavoli loro. Però quello sì. Dire, sì, sono cavoli. Mentre capisco, ripeto, un vegetariano, questo io lo posso capire benissimo, non è che non veronesi, lo queste robe qua, sì. c'è anche una filosofia, una cultura, un ragionamento, ma i vegani, no, davvero, tra un pochino mangiano il cartone, mangiano il tofu, che è una roba da vomitare. Il tofu, io ogni tanto l'ho provato, devo dire la verità. Cosa? il tofu e cos'è il tofu? Ho provato il tofu, è una specie di formaggio di donne, esatto. Anche vegetale cinese, ma sono andate a fare, ma fa veramente schifo. Ma lei l'agnello se lo mangia a Pasqua? Sì, no, perché non mi piace l'agnello, ma non per i principi che dicono questi. Ah, non ti piace? Io l'agnello invece no, l'agnello né pecora mi piace. A me la bacchia mi piace da morire. Ecco, l'abbacchio non l'ho mai mangiato perché non mi piace l'agnello, ma maiale lo mangio, la carne la mangio tutta, non mi piace l'agnello, non mi piace. Comunque ma pare piace che... più l'agnello in generale o la gnocca per dal punto di vista? No, mai la gnocca per me sono come tu. Ho io un'età. Vabbè, ho capito, ma non è che vuole fare l'allungamento del pene pure lei, no? Bianco? No, non ne avevo bisogno e non ne ho bisogno, non mi pare. Pure lei c'ha, non è che pure lei c'ha misure extra, no, Biancone, no, per carità. Ma io non mi vanto delle mie misure. No, no, meno male, Ma meno... scusa, ma che adesso sinceramente, ma sei solo ma che cazzo di ragionamento fate? Ma ragazzi, ma sono mica all'università qui, No, o nei gabinetti del liceo, lei deve sapere questo. Cruciani, che evidentemente ha scoperto la gnocca dopo i 40 anni. Ma figuriamoci. Però sta lì tutto il giorno a misurarsi il bidello, è una cosa incredibile. No, cioè, ci sono dei complessati. Ma ragazzi, io non sono complessato per niente, ma di che state parlando? Comunque torniamo alla politica. Berlusconi vuole vendere anche il Milan, sembra. Dopo Forza Italia c'è la dismissione totale. Ma ho fatto un tweet io. Sul Milan pure? Sì, no, dunque, vende il Milan a cinesi e Forza Italia l'ha già venduta a Venezia. Ormai siamo in liquidazione coatta amministrativa. Liquidazione totale di due. È straordinario, però, come si possa passare da pochi anni. No, in fin dei conti. Io pochi... penso di no. Io penso che, ora, al di là degli scherzi, sì. Penso che un uomo che ha praticamente è stato un uomo straordinario, al di là degli scherzi, abbia messo insieme alcune cose e che oggi queste cose, essendo il naturale epilogo di molte idee della vita, anche perché si può campare anche mille anni, ma. Quello che è tutto finito. Insomma, siamo a smobilitare come quelli che si comprano le case belle da giovani e poi da vecchi vendono le ville e comprano l'appartamentino in città. Insomma, e lui riduce le sue attività. Insomma, Milan gli ha dato tutto e ha fatto tutto. Sta riducendo tutto, tanto i soldi non gli mancheranno. Per 20 anni gli ha dato tante soddisfazioni. E ora è un capitolo chiaramente finito. È un po' una tristezza, finisce. Volevo nella tristezza. Una cosa, finisce nella tristezza perché io francamente gliel'ho anche detto. Sì. O continuava a fare la battaglia del centrodestra come ha sempre fatto, riconoscendo anche gli sbagli che aveva fatto. Oppure? E allora aveva sempre la potenza della sua immagine perché ma se doveva fare il tricchetrocche e l'uomo della politica che si intrica col palazzo, che non l'aveva mai fatto, fa gli accordicchi, l'affari da sotto scala, mi conviene a te, ne piglio tre di qua, ne lascio due di là, e poi ogni tanto fa gli stessi discorsi, era meglio che lasciasse prima, secondo me. Comunque Razzi dice che per esempio Bondi e la Repetti, che hanno lasciato Forza Italia, non possono sputare nel piatto dove mangiano. Signor Razzi, signor Razzi, Razzi e ha mangiato sul piatto di Di Pietro e poi gli ha spiegato, ha sputato nel muso e anche da qualche altra parte, e cioè, poi è andato con Berlusconi. Non può parlare Razzi, cioè non può parlare. Direi che Razzi in generale non può parlare, poi però parla Carozza per lui, insomma, perché va a finire che Razzi si è ridotto a fare il verso a Carozza. Razzi vive perché imita Carozza. Io volevo sapere questo. Però ma dà una cattiva immagine di Forza Italia Razzi ogni volta che va in televisione. Razzi dà l'immagine di se stesso, in politica c'è tutto, insomma. C'è Razzi, c'è anche, insomma, se si guarda la fauna che c'è stata, che c'è, anche io stesso, non lo so mica questo parlare con voi se conviene alla politica, però voglio dire, Bondi, per me, io sono Agrigento e Bondi Domodossola, sì. Io sono nero e Bondi è della Finlandia, cioè fra me e Bondi c'è un universo di diversità. Sì, sì. Però non si tratta così uno che bene o male ha fondato il partito, bene o male è stato dedito a Berlusconi, anche con le sue cose, sì, delle quali talvolta noi anche scherzavamo, sì, anche con molta cattiveria. Questo è un uomo che ci patisce sul serio. Cioè ha ragione quando parla di questo cerchio magico formato da... Questo lui ritiene di sì, anche perché lui è un estromesso da diciamo così... Dalle sale di corte, quindi sente ancora più il peso. Ma poi sto cerchio magico, ma da chi è formato? Poi, ma io non ci ho mai creduto a questa cosa, l'ho anche detto Starossi, non mi ricordo se a Lorenzo ieri o a qualcun altro. Guardate che quando gli uomini assoluti, cioè i capi, fanno le cazzate a fine carriera, non c'è apologeta o non c'è pubblicistica che non dica che l'hanno sciupato quelli che gli stavano intorno, perché peggiorando. E invece no. Se li sceglie lui. Se li sceglie lui. Quelli che si tiene intorno, se li sceglie lui. Ce le dice i coglioni. Non è che gente che sgomita più di altri, è lui che se li sceglie. Per cui alla fine non è colpa dei servi, le tu dici, ma no, i servi sono lì perché sono servi, ma perché lui li vuole servi. O sono lì perché sono oppositori, perché lui li vuole oppositori. Ma come sono questi servi? Anche sciocchi? Non lo so, quelli che stanno intorno a Berlusconi. Toti è imbarazzante, guarda. Toti è imbarazzante. Veramente è disadatto al lavoro della politica. Io lo capisco anche perché non è un cattivo ragazzo. E Rossi, ma lui ha fatto il giornalista una vita. Ed è un conto stare fuori dell'acquario e vedere i pesci che si mangiano dentro e commentarli. Un conto è essere pesce e dovessi fare il cibo tutto. E la Rossi invece? Nell'acquario, capito? E la Rossi? La Rossi è una... io sono amico della Rossi, quindi ne parlo solo bene. Vabbè. Ti abbraccio. Volevo sapere questo. Dimmi, dai. No, vabbè, che chiudiamo. Mi interessa da qui a domenica, a sabato. Cioè, la Pasqua di... Che la Pasqua di Bianconi, come sarà? Cosa farà? Ma che dici? Io vado a casa con i miei cani, mia moglie, la figliola, mi dedico al mio hobby preferito in questo momento. Ma qual è il piatto tipico ma che mangerà? Ma perché? No, io ho la mamma umbra e quindi mangio la torta al formaggio. E io sono toscano, della Toscana meridionale, quindi mangio la panina con l'uva e il pane coi ciccioli. Mamma mia, che grassezza! Oh. Molto bene. Ciao, presto. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta La Zanzara. Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Allora andiamo a Roma da Alessio, vai. Buonasera. Cani, buonasera, grazie anzitutto per questo spazio. Grazie per questo spazio, che vuol dire? Hai chiamato tu? No, beh, avete richiamato voi. Ma noi richiamiamo sempre per non far spendere. Complimento assolutamente, perché è veramente una sensibilità rarissima la sua, e mi complimento con Rizzi, che come al solito ha centrato sempre. Ma chi è Rizzi? L'ha descritta benissimo. Rizzi chi? Non ho capito. Ma soffre anche d'amnesia, Cruciani. No, ma non so chi è Rizzi, di chi sta parlando? Capisco che lei è abituata a leggere il mondo fra buoni, cattivi. Ma chi è Rizzi? Mi dica chi è Rizzi, non so chi è Rizzi. Agnelli, capisco anche che insomma è giusto che. Ma di chi sta parlando? Scusi, non ho capito. Che c'entra la Confindustria? Che lei cerchi di guadagnare qualche punto di share. No? Alessio, di cosa sta parlando? Di chi sta parlando? Faccia capire a chi ci ha gli ascoltatori. Perché sono. Non ho capito, Rizzi, ce ne sono. Ma chi ha? Rizzi, quello degli animalisti? No, Enrico Rizzi, ma non stiamo parlando, ma non stiamo parlando di Berlusconi, di Renzi, Enrico Rizzi stiamo parlando. Lo cerca sempre lei allora. Io lo cerco perché è uno che sostiene delle idee sugli animali, punto. Ma non, lei mi ha detto Rizzi, capito, come se io dovessi sapere per forza chi è Rizzi. Non stiamo parlando di statisti, stiamo parlando di Enrico Rizzi. Sembra che. Ma no, ma qui statisti non ne vedo, ma neanche grandi giornalisti. Vabbè, ma d'accordo. E allora, ma cosa? Sulle spalle. Vabbè, ma giganti, cosa vuole dire Alessio? No, ecco, non ho capito. Mi complimento per la sua sensibilità. Ma su che cosa? Rizzi l'ha descritta benissimo. Ma come mi ha descritto? Non lo so, non seguo Rizzi ogni giorno. No, penso che l'abbia visto invece. Ma lei non deve parlare con me, sta parlando agli ascoltatori. Dunque, descriva come. Ma io sto parlando anzitutto con lei, perché lei è il padrone di casa, quindi è giusto parlare per questo spazio, per come lo gestisce, vabbè, per le sue idee, per come le espone. Va bene, Alessio, vogliamo andare al sodo oppure no? Certo, è il sodo. Ma non ho capito niente, No, mi dispiace, non ho capito. Io penso che abbia capito invece. No, non ho capito, spieghi. No, le volevo, ripeto, fare i complimenti. Va bene, per la mia sensibilità animalista, benissimo, ottimo. No, la sensibilità in generale, mica soltanto animalista. Va bene, Alessio, grazie. Eugenio, Pordenone. Allora, Nosferatu Crociani. Allora, io sono un ex vegetariano discriminato. Sì. Però gli animalisti mi stanno sui coglioni in una maniera impressionante. Tra l'altro, ho scoperto che anche Parenzo è animalista. Beh, no, guardi, questo. Attenzione, perché antepone gli animali al suo credo. Infatti, quando ha telefonato Mauro Corona e ha posposto un asino al suo creatore in diretta, lui non ha detto niente. Vabbè, non ho capito. Comunque, non ho capito che è successo. Non ho capito la sua tesi. Scusi, non ho capito che è successo con Corona, Eugenio. Allora, con Corona, quando avete chiamato Mauro Corona a difesa degli avvinazzati veneti, Mauro Corona a un certo punto in diretta ha detto il nome del creatore e ha posposto un animale quadrupede che fa di nome asino. Renzo non ha detto nulla, forse perché l'ha detto in dialetto veneto. Già, lei vuole dire che ha bestemmiato, questo vuole ha bestemmiato dire. In diretta. Comunque io voglio. Ma che c'entra questo? Non ho capito che c'entra. No, che è un animalista, perché scusa, è il suo credo, è uno bestemmia il credo, allora non vuol dire sono che sono accorto della bestemmia, ma se vabbè, allora vai avanti, Eugenio, andiamo avanti. Io vorrei che innanzitutto ognuno si facesse i cazzi suoi, nel senso che se io voglio mangiare la merda, e l'importante è che non impongo il mio modo di vedere la mia cucina merdifera come la migliore, è giusto che io la mangi e che nessuno mi critichi. Ecco. E poi voglio che venga istituito dalla Brambilla un comitato per la difesa dello streptococco che causa la fascite necrotica, perché è un batterio ed ha la sua dignità. I batteri hanno la loro dignità, basta antibiotici, è finita. Devo dire che da un certo punto di vista lei non ha tutti i torti, però, Eugenio. Non ha perché a questo è punto, un perché, paradosso, giusto? Perché non dobbiamo proteggere anche i batteri? Dobbiamo proteggere i batteri. Sono forme di vita, allora proteggiamo anche i batteri. Dobbiamo proteggerli. Anzi, non solo proteggere i batteri, ma certificarli come animali da compagnia, come esseri umani da compagnia. Cioè, chi più di loro stanno all'interno nostro? Chi? Chi è più a contatto con l'essere umano? Se non i batteri. Proteggiamo anche i batteri, dunque moriamo. Spero che la Brambilla lo prenda a petto questa cosa e formi un comitato. Va bene, Eugenio. Enrico da Roma, vai Enrico. Ciao, sono Enrico. Volevo intervenire semplicemente sul fatto che abbiamo parlato prima degli agnelli. Allora? D'accordo, per carità, nulla. Volevo contare anche perché io non sono Vabbè, dai, forza. Nulla, non vi sto qui a dire come vengano uccisi, ma come li facciamo vivere questi animali che poi devono essere. Enrico, come stai parlando? Col viva voce, con l'auricolare? Come no, stai con parlando? Il telefono, ma sono in viaggio. Che... allora avvicina, che fai? Come Parenzo? Se no, dai, vabbè, allora. No, per carità, no, assolutamente no. No, nulla è contrario, dico per carità, io ripeto, mangio carto, però non vi sto a dire, ma voi sicuramente lo sapete meglio di me. Ragazzi, ma che gli animali soffrono dell'uccisione? Ma questo è dall'inizio dell'umanità, da quando è nata l'umanità che è così, che gli animali vengono cacciati e soffrono. Vogliamo ribaltare tutto? Vogliamo fare un mondo in cui gli animali non muoiono mai? Ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Sto dicendo, io mangio carne. Allora perciò non sono di questi che diciamo. Vabbè, no, però le dà fastidio pensare alla sofferenza degli animali. Vabbè, Enrico, no, se ne no, faccia una no, se ne faccia una ragione. Se ne faccia una ragione. Oh, ma secondo te come si devono sentire quelli che si chiamano schettino in Italia? Cioè, da quando è scoppiato il casino che riguarda il comando. Sì, qualche problema possono avere. Allora, io sono riuscito a sapere che in alcuni comuni si sta promuovendo una grandissima campagna, che è quella del cambio del cognome. Cioè, il comune vuole cambiare cognome a chi si chiama schettino. No. Sì. Ma veramente. Diversi comuni in Italia stanno chiedendo ai cittadini. Beh, è una follia, di dai. Cambiare cognome, perché questo cognome getta discredito. Ma è una follia. Sarebbe getta... come dire, io non voglio più chiamarmi Cruciani perché no, non adesso perché... non è che il cognome Cruciani, per fortuna, non è come paragonabile come a quello di schettino. Cioè, una volta veniva associato a grandi medici. Adesso viene associato a una persona che. Beh, ho capito, però nessuno chiede. Nessuno chiede di cambiare il nome Cruciani, per fortuna. No, per adesso non è così. Succederà. Comunque, magari anche Parenzo. In questo momento il nome schettino è più sputtanante del mio. Adesso, sì, oggettivamente. Dico, magari anche Parenzo, un domani i miei partiranno. Qualcuno si vergognerebbe a chiamarsi Parenzo. Io, ad esempio, mi chiamassi Bitonci, mi farei immediatamente cambiare il cognome. Però, ma no, esempio, ma dai, stai esagerando. Dico, ad esempio. Stai esagerando. Comunque, no, ragazzi. Dico, ad esempio. Non è ma ad esempio. Non vorrei dirlo, ma lo dico ad esempio. Vabbè, ti vergogneresti di chiamarti Bitonci? Perché c'è un signore che fa multare, ma poi ne parleremo, mi auguro, perché mi hai tagliato, mi hai censurato. E avevamo concordato che questa puntata avrebbe dedicato un'ora e 44 sì, minuti sicuro. A fare Bitonci. Vabbè, comunque, sentiamo alcuni funzionari comunali che chiamano cittadini che si chiamano Schettino, che hanno come nome Schettino, e cercando di convincerli che, ragazzi, per l'immagine della città è meglio cambiare cognome. Sì, buonasera, sono Esposito e chiamo dal comune. Parlo col signor Antonio Schettino. Sì. Il comune ha deciso, per una questione di immagine, di cambiare alcuni cognomi. E il mio cognome sporcherebbe l'immagine del comune di Nocera Superiore. Io ne vado fiero del mio cognome. Se state scherzando, finimmelo qua. No, per carità. Mi sta comunque... offendendo. Ho capito. Mi sta offendendo. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con il signor Schettino. Sono io. Il comune ha deciso, per una questione di immagine, di cambiare alcuni cognomi. Sì, il cognome è diventato una vergogna. Il cognome Schettino getta discredito. Ma che c'è a sé? Per uno stronzo, ma quando mai? Ma non esiste proprio. Il ma... comune, per questo cambio di cognome, offre anche dei soldi. Abbiamo stanziato un fondo di 1.000 euro. Io mando solo a fanculo comune di Napoli a fare questi stronzati. Lei signora sarebbe disposta a cambiare cognome? Il comune per questo cambio di cognome offre dei soldi. Ma sì, buono. Abbiamo stanziato un fondo di 1.000 euro. Buono. Allora accetta. Discutibili subito. Oh, mi porti 1.000 euro e poi cambiamo cognome. È il suo cognome e tra quelli da cambiare. È una vergogna per il comune di Napoli. Ma ecco. Vada a cagare, è un brutto ragazzo. No, mi scusi, no, non si alteri però. E lei... Sparatevi tutti quanti, non mi rompe i coglioni, testa di cazzo. Ah, beh, la ringrazio, lei è particolarmente. Signore, che si chiama Schettino, non ha reagito benissimo a questa iniziativa. Sì, però anche se funzionare del comune, dai. Beh, ho capito, ragazzi, però. No, ma dico dai, ma che sono anche fastidiosi, no? Perché un po'. Perché devi. Era giusto che la gente si incazzi. Ma io capisco che in alcuni comuni. Ho capito che voce aveva quel funzionario lì, dai. Beh. Ma no, ma mi innervosiva anche solo a sentirla, mi innervosisce solo a sentirla. Va bene, dai, andiamo a Roma, Sabrina, vai. Voi non ci posso credere, finalmente. Vai, dimmi. No, io mi fate troppo ridere. Comunque, no, è troppo divertente questa cosa dei cognomi. Mi è venuto in mente che conoscevo delle ragazze che si chiamano Razzi di cognome. Razzi, sì. Secondo me. Adesso Razzi non è uno. Dopo, no, Razzi, senti, cosa c'è di peggio? C'è l'onorevole Razzi, veramente. Vabbè, ma ho capito, maestro, ma non è vero, ma non è vero, ma dai, dai, su. Dovreste farlo pure con loro. Ma non è vero che adesso chiamarsi Razzi è una vergogna, ma non è vero, dai, su. Ma dai, guarda, ti dirò, peggio di Schettino, secondo me, peggio. Boh, quello, ma vabbè, no, un ma non dire stupidaggini, dai, no, ma Razzi è un amico, senti, mio, lo difenderò sempre. Adoro. No, e vabbè, io ieri ti volevo chiamare per dirti una cosa, che io ho assaggiato il nero di D'Alema ed è buonissimo. Brava. Veramente, ve lo giuro, è stupenda, un rosé magnifico. E, ma guarda, che a me non me ne frega niente. No, una cosa. A me del vino di D'Alema non me ne può fregare di meno. Io, cioè, ho ordinato il vino di D'Alema, ti assicuro. Pensa, io che sono... guarda, gli stiamo facendo una pubblicità pazzesca. Ragazzi, ma quello sicuramente c'è stata una grande pubblicità al vino di D'Alema. Io però voglio dire due cose su D'Alema. Parenzo, che ho ordinato il vino di D'Alema, è penoso, oltre che essere l'avvocato, è anche il pagato, dire... Sì, vabbè, certo che è pagato, ci mancherebbe pure. Comunque, la cosa più incredibile di questa vicenda è che oggi lo spiega benissimo Franco Bechis su Libero, che alla fine le cooperative volevano finanziare D'Alema semplicemente per un motivo, perché speravano che D'Alema diventasse commissario europeo. E no, che ma come no? Ma no, aspetta un momento, un momento. C'è un'intercettazione molto chiara. Scusami, in cui si parla, stai calmo, quando si parla di D'Alema mi interrompi continuamente. Cioè, sei diventato il difensore di D'Alema. Una cosa incredibile. Ma guarda, l'intercettazione, mi fai parlare o no? Le intercettazioni in cui si parla di mani nella merda, le intercettazioni dei protagonisti di questa vicenda, sono abbastanza chiare. Poteva diventare commissario europeo, ma non c'è niente di strano. E dunque volevano finanziarlo attraverso i libri, cosa che si fa da un sacco di tempo, e attraverso i vini, perché è ovvio. Non è così. Ma non è così. Allora, compravano i vini perché erano buoni vini di D'Alema. Lette le carte di Seconda cosa. Lui dice... Lui dice di essere un... Lui dice di essere un cittadino pensionato, un semplice cittadino pensionato. Non è vero per nulla che è un semplice cittadino pensionato. Ha ancora relazioni, eccetera, eccetera. E mette le mani in pasta nella politica, interviene alla direzione del Partito Democratico. Mette le mani in pasta. Ma mica ho detto che ruba, ho detto che è intervenuto pochi giorni fa alla direzione del Partito Democratico. E dunque non è un semplice cittadino pensionato da lei, ma è un politico. Un politico a tutto tondo che conosce amministratori, ed è per questo che le COP volevano finanziare i libri, che oggettivamente comprare 500 libri ad D'Alema è chiaramente un favore che si fa ad D'Alema, e comprare 2000, ma qual è il cittadino semplice, il coltivatore di vino piccolo in Italia, perché che ottiene, che riesce a convincere una cooperativa a comprare 2000 bottiglie di vino? Ma me lo spieghi dove si trova? I piccoli coltivatori italiani, produttori italiani di vino, che dovrebbero incazzarsi, non hanno il favore, di una cooperativa che compra 2000 bottiglie. Tutte le aziende, molte aziende anche piccole, funzionano all'inizio per il loro mercato per relazione, per cui questi comprano il vino perché sperano che D'Alema diventi commissario europeo, ma non per traffici illeciti, perché sperano in qualche appoggio, eccetera, eccetera, eccetera. Pubblicità. Ma Cruciani, ma tu sei fuori di testa, se. Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Sì, lo sapete che ci sono stati dall'inizio della legislatura 235 cambi di casacca, 235 cambi di casacca, secondo alcuni è tutto normale, secondo me è uno scandalo pazzesco, non esiste in nessun altro paese al mondo che all'interno di un'assemblea legislativa 235 persone dall'inizio della legislatura cambino partito, cambiano formazione politica, anche se magari restano alla stessa coalizione. L'unico motivo per cui si fanno queste cose di solito è mantenere la poltrona, convenienze, roba bassa, roba di bassissimo livello politico. Questa è la realtà dei fatti. È successo recentemente anche a qualcuno dei 5 Stelle che è uscito dal movimento. C'è chi è andato in sciolta civica, io lo chiamo sempre sciolta civica, c'è chi è rimasto nel gruppo misto. c'è un deputato che si chiama Currò, che è andato invece nel Partito Democratico. Io vorrei provare a chiamarlo, cioè ha aderito al Partito Democratico, che in questo momento è vero che viene dal mondo della sinistra, Currò eccetera, però insomma va nel partito di Renzi, è da tempo uscito dai 5 Stelle, signor Currò, però vorrei chiedergli una cosa, vorrei chiedergli diverse cose, adesso proverò a chiamarlo, cioè se mantiene lo stipendio, insomma... Ma non ti risponde, dai. No, risponde secondo me, vedrai. Vedi, qui la vuoi. Adesso secondo me risponde. Pronto? Currò? Sì. Ciao, sono Cruciani, come stai? Oh, Cruciani, buonasera. Come va? Bene. Come la va? Molto bene. È un po' clamoroso, no? Cioè, il fatto che uno passi dai 5 Stelle al Partito Democratico, no? Ah, tu lo ritieni clamoroso? Non lo so. No, ho capito, Currò, però non è che c'è l'obbligo di dimissioni, però per voi che siete entrati in Parlamento in un certo modo, con certi obiettivi, forse sarebbe il caso di dimettersi o no? Ma Cruciani, ma finiamo, per cortesia, questo è populismo, lo so, bravo, dai. Scusami, non c'è il vincolo di mandato? Qual è il problema? Non sto capendo. No, però, non è che sto tradendo i miei valori personali o sto tradendo la mia parte, scusami. Beh, la tua... il problema è che quel partito che io ho... in cui ho militato, sì, ha preso una direzione politica assolutamente sbagliata, assolutamente distruttiva, e quindi ho preso le mie risoluzioni. Addirittura mi hanno massacrato in 2 anni, mi hanno spento umanamente e politicamente. Cosa vuoi che faccia? Ma spento umanamente, che vuol dire? Che vuol dire spento umanamente? Non sono potuto riuscire a lavorare lì dentro. Però scusami, Currò, c'è una cosa fondamentale: cioè uno sceglie di entrare in Parlamento avendo come con un mandato dietro degli elettori, che è quello anche di dimettersi nel caso in cui uno cambia gruppo parlamentare. Non è scritta questa cosa. Vabbè, ma lo dicevate a destra e a manca, dai, in tutte le salse l'avete sempre detto. Grillo l'ha sempre detto, i traditori, quelli che cambiano partito, eccetera, eccetera, la vecchia politica. Grillo l'ha sempre detto, e tu condividevi queste cose, almeno all'inizio, o no? Cruciani, io non è che sono andato lì con questo obiettivo, cioè io voglio realizzare degli obiettivi di, sì, politica per il mio territorio, per la mia regione, e voglio crescere politicamente. Se tu mi adesso devo dimettermi, per quale motivo dovrei farlo? Cioè, perché all'inizio, perché rispetto ad altri che sono entrati in Parlamento, leggere con l'obiettivo, dicendo da subito che comunque i cambi casacca non si sarebbero fatti. Farla? Sì, è parenza. Buonasera. No, ma io ti rispetto, no, voglio dirti di più. Benvenuto nella civiltà, perché abbandoni quei trinariciuti lì, quindi benissimo. Vabbè, tu sei contento perché passano a partire. No, ma non perché va nel PD, sono contento perché va verso la razionalità e abbandona la ghigliottina. Dopodiché gli devo mostrare anche solidarietà per quello che sta subendo, perché ti stanno è vero o no che ti stanno linciando? Cioè, un po' di paura la avevi ad abbandonare quella che c'ho paura, è normale. Perché paura? Questi si possono... Perché ma vai a vedere, ma scusami, Cruciani, non so se tu hai visto le pagine Facebook, non ti dico io, ma dei colleghi anche Rizzetto, di altri che sono usciti, cioè vengono sottoposte ad una forma diciamo così squadrista, comportamentale, per cui tutte le conquiste di civiltà che noi abbiamo vengono messe totalmente da parte. Allora non è che Grillo è Dio, io sono Giuda il traditore, non funziona in questo modo, perché tu mi devi spiegare una cosa. Loro ti dicono: tu sei entrato in Parlamento grazie a Grillo, tu sei entrato. Sono io che tradisco, mi sono speso per anni sul mio territorio portando dei risultati concreti, o il Grillo che dice ogni giorno delle cazzate che mi fa vergognare? Scusa, Diego Cruciani, no, ha ragione, ti ha tradito, ti risponde a questa domanda. Ma perché cazzate? Non ho capito, perché Grillo dice ogni giorno cazzate? Perché Grillo ha fatto delle scelte politiche assolutamente distruttive. Siccome tu sei entrato grazie a Grillo, e solo esclusivamente secondo me grazie a Grillo, adesso che stai dicendo che Grillo ha tradito, che dice cazzate, dovresti dire: ma ok, non sono più d'accordo con te, me ne vado dal Parlamento. Non lo dico perché io non sono in Parlamento per scattare una poltrona. D'accordo, Cruciani, lo stipendio lo prenderei. Io cerco un contenitore democratico che mi consenta di esprimere la mia personalità. Scusa, Grillo, il tuo ex leader Grillo, con cui sei entrato in Parlamento, dice che il PD è un partito sostanzialmente eversivo. Cioè, l'ha sempre detto sin dall'inizio. Dice che il PD è un partito eversivo. L'unico partito in Italia che ha uno statuto democratico depositato, riconosciuto, e che ora presenterà anche una legge d'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Tu mi fai a dire. No, ma è Grillo. Ma di chi stai parlando? cambio. Ma Grillo lo sta dicendo, il leader. Io lo sto dicendo per riflesso, diglielo tu a Grillo, visto che tu me l'hai detto a me. Ma sei entrato tu. Ma sei entrato tu in Parlamento, Grillo, mica io. Comunque, non vabbè. Non ci siamo intesi. Ti ho già detto che io sono entrato con il Movimento 5 Stelle, va bene? Sono entrato lì per promuovere delle politiche pubbliche, per assumersi delle responsabilità. Cioè, il PD è un partito molto più democratico del Movimento 5 Stelle, sta dicendo. Molto ma assolutamente più... sì, ma questo non è una mia opinione, questo è un dato de facto. Prenderai lo stipendio intero oppure no? Ma questa è una cosa che valuterò nel tempo, perché ti spiego. Ma come valuterò nel tempo? Scusa, ti spiego, tu sei... quando sei dentro i 5 Stelle almeno hai un gruppo legislativo che ti supporta, ok? Ti supporta. Però da quando sei uscito hai tenuto tutto e continuerai a tenere tutto, immagino. Non ho restituito quella quota di indennità, quella no. In due mesi non l'ho restituita. Cioè prendi, prendi lo stipendio pieno? Sì, l'indennità piena, certo. Posso anche decidere di restituire, per esempio, una quota di rimanenze alla fine del mio mandato. Posso fare una scelta, però ti dico una cosa. Anche questa roba qua, se io lo faccio, non ne faccio pubblicità, capisci? Non ne faccio pubblicità. Vabbè. 3.000 euro per me sono più che sufficienti, vanno benissimo. Renzi sta facendo qualcosa di positivo per il paese o no, secondo te? Ma stai scherzando? Ma è ovvio che lo sta facendo. È sotto gli occhi di tutti. Guarda che ieri è stata approvata una legge anticorruzione sulla quale i 5 Stelle, i miei ex colleghi, hanno votato no. Questo hanno fatto. E allora di che stiamo parlando? Cioè, leader giusto per l'Italia in questo momento. Io ritengo che in questo momento ci sia bisogno di persone che si assumano una responsabilità e esercitino. E Renzi lo sta facendo. E che c'è bisogno, se lo dico io, parere. E che ne so, lo sto chiedendo a te. Mica la pensano tutti così. Evidente, i grillini scusa, pensano che Renzi sia. I grillini pensano che sia il male. Scusami, Cruciani, si sta portando avanti una riforma del mercato del lavoro, una riforma delle banche popolari. Stai facendo tutto una anche su Renzi, anche su Renzi hai cambiato idea, ma va benissimo. Scusami, ma perché due anni fa io c'avevo un'idea su Renzi che neanche esisteva? Ma di che stai parlando, Cruciani? Cioè, sul Partito Democratico, su Renzi, poi hai cambiato idea rispetto a quando sei entrato in Parlamento. Io abbia avuto una vocazione mia, personale, rivendicata e di cui vado onore, ok? Vado fiero. Sì. Di sinistra, questo lo parla la mia storia familiare. E va bene, personale. Sì, certo. Benissimo. Quando poi Grillo prende una piega populista di destra, che si mette con Paraggi, che dice gli ebrei, che dice quello, che fa le vignette con Renzi sull'aereo mobile che si schianta, strumentalizza ogni porcheria, lì permetti che mi vergogni oppure no? Quando in aggiunta non ti prendi responsabilità di governo, rimani all'opposizione, fai un'opposizione del cavolo che non porta nessun risultato, perché è un'opposizione assolutamente asfittica che non porta un risultato non l'abbiamo portato, uno, dimmelo uno. Ma non te la pigliare con me, però perché te la pigli con me? Io ti faccio permetti, io faccio le mie scelte perché ritengo che quelle scelte vadano nell'interesse pubblico della collettività, perché come recita l'articolo 67 io esercito il mio mandato nell'interesse della nazione, non di Grillo. Grazie Currò, grazie, ciao. Allora, questo era Currò. Qualcuno mi suggerisce, fai riascoltare i discorsi che faceva Currò all'inizio della legislatura. Che vergogna sentirlo parlare. Era un esponente dei 5 Stelle che non è più dei 5 Stelle, che ha aderito al Partito Democratico. Insiste ancora la signorina Daniela Martani, che molti ricordano essere una passionaria, la passionaria delle hostess dell'Alitalia in quel momento in cui fu deciso il destino della compagnia. Ma non era quella col scappio? No, la Martani era una hostess dell'Alitalia, se non sbaglio, poi andò pure da Santoro. Ah no, quella era la Piredda. Sì, quella era la Piredda, quella che fu candidata per l'Italia dei Valori e diventò consigliere regionale, credo, in Liguria. La Piredda, te lo devi sognare la notte, ogni notte della tua futile vita, e mi manda una foto con un agnello sgozzato. Ma io lo so benissimo come vengono ammazzati gli agnelli, amica mia, però me li mangio lo stesso. Beh, non è che poi succede solo adesso, gli agnelli vengono squartati, gli animali vengono squartati. Ma è chiaro che se uno vede no, ma gli agnelli vengono squartati per essere mangiati dai tempi della pietra, dell'età della pietra, da quando esiste l'uomo. Prendevano gli animali e li squartavano vivi, ed è accaduto prima di Cristo, dopo Cristo, e continuerà ad accadere. Mi dispiace, continuerà ad accadere, perché gli agnelli sono fatti pure per essere presi, squartati e magnati. Ma perché bisogna essere ipocriti? Cioè, ecco. Sì, gli agnelli sono fatti anche per essere presi, squartati e mangiati. Sono fatti anche per questo. Soffrono, sì, certamente. Quelli che vengono ammazzati soffriranno sicuramente. Sono convinto che soffrono. Però è così, non c'è niente da fare, è così. Siete proprio delle bestie. Ma non bisogna essere bestie per dire la verità. È la verità, soffrono, certo. Ma quando ce ne preoccupiamo noi che soffrono? Quando ce ne preoccupiamo? Quando? Giorgio da Napoli, Giorgio, vai. Ragazzi, siamo al top. Vai, vai, ma Giorgio. Ma c'è quel deficiente di Toscano che dice che gli animali, poiché le galline sono esseri deficienti, non hanno motivo di esistere. Ma chi l'ha detto? Vabbè, dai, forza, vai avanti. No, perché esiste un ecosistema. Ogni animale ha la sua funzione sulla terra, punto. Io non sono vegano, non sono niente. Però certe deficienze non si possono sentire. Anche le api, Einstein diceva che le api, qualora si estinguessero le api, l'essere umano non vivrebbe più. Vabbè, giusto? Poi? Quindi niente, quindi questo è. Quindi ogni animale ha la sua funzione sulla faccia della terra e tutti gli animali hanno diritto di esistere. Vabbè, d'accordo, hanno diritto di esistere, però alcuni ce li mangiamo. Faustino da Livorno, vai. Alcuni ce li mangiamo, ragazzi, ma perché non bisogna ammettere quello che accade? Alcuni ce li mangiano, poi uno può fare un'altra scelta, quella di non mangiare gli animali, va benissimo, ma sì, perfetto, certo. Ma non rompete i coglioni a quelli che gli animali vogliono continuare a mangiarli. Non siamo degli assassini, siamo esseri normali, moriremo prima di voi, può darsi che moriremo prima di voi, non lo so, però ci potete lasciare morire in pace mangiandoci la fiorentina oppure dovete... Faustino, vai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, brevemente volevo solo dire che i vegani, che sono i più oltranzisti, sono una contraddizione in termini, perché conosco bene, ho parenti che sono vegani e ho potuto sperimentare la loro cucina, evitano la carne, vanno avanti a surrogati e non si rendono conto che questi surrogati derivano dall'industria chimica alimentare e l'industria inquina e bene o male indirettamente fanno del male agli animali. E poi costringerli anche, non so, a mangiare vegetariano come loro, animali come i gatti, purtroppo non possono fare a meno di certe proteine della carne nel loro metabolismo. Tutto qua. Va bene, Faustino, è interessante però questa teoria. Valeria, provincia di Varese. Valeria, sono vai. Pronto, eccomi. Vai. Allora vorrei parlare anch'io di animali, anche se mi tocca di parlare con due bestioline. Scusate se mi permetto, ma potrei esservi nonna, per cui... Ma adesso bisogna vedere, comunque. Sì. E siccome appunto si parlava prima del che venivano squartati, i pagani quando dovevano ammazzare un animale per mangiarselo dicevano una preghiera. Comunque li rispettavano nell'allevarli. I signori pagani. Quando sono arrivate queste tre non religioni è una religione, di merda, non è una religione di merda, a iniziare da quella di Parenzo e di seguito la nostra e adesso vediamo i musulmani, che hanno messo questo essere abietto che si chiama uomo, ma quando è bestia è più bestia di qualsiasi bestia. Cioè l'essere abietto è l'uomo. L'uomo quando è bestia è più bestia di qualsiasi bestia, capito? E allora? L'ha messo al centro. Ma lei la mangia la carne, signora Valeria? Io ne mangiavo pochissima, adesso non ne mangio proprio. E che mangia? Mia madre non ha mai mangiato carne, anche quando finita la guerra. Vabbè, perché io sono anche guerra. Vuole, non mi quando noi si mangiava la carne la mangiavi due volte l'anno e forse ogni 15 giorni il pollo, il coniglio. Ma io non ho capito così. Una cosa, ma lei sì. Adesso, lei non, la sua mamma non mangiava la carne, benissimo, lei ne mangia pochissimo, benissimo, io non mangio il maiale, ma non rompo i coglioni a quelli che mangiano il maiale. Ma io perché? Non rompo nessuno, io dico solo di rispettarli, almeno negli allevamenti. Vabbè, e poi appunto volevo arrivare ad una conclusione riguardo queste tre religioni di merda. Vabbè, Valeria, adesso le religioni solo non rispettavano gli animali, sì, ma neanche le donne e i bambini, perché per loro non avevano anima. E quindi non soffrivano, lo capite? No, non lo capiamo. Allora si legga qualcosa. Ha capito? Siccome gli ebrei per primi, visto che avevano come nemici gli egizi adoravano domani, i gatti, 18:30, hanno incominciato 18:30 ad ammazzare domani, i gatti. Di seguito i bravi cristiani che ammazzavano le streghe, i gatti, domani. Secondo quello che dava fastidio a loro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.